Italia in controluce. Dobbiamo rientrare sul posto di lavoro. Dove lavoro? Al RID. Al RID. Allora. A me non mi ha chiamato nessuno, io potessi pure cercare di andare a rientrare con bagno. Qua o rientrano tutti o nessuno. Però noi non possiamo. Diretto, o tutti, o tutti, o nessuno. O tutti, o nessuno. Ma lui, da qua, o basta una persona che non rientra nessuno. O tutti, o nessuno. Ma se... Avete sentito gli operai di Taranto, l'abbiamo chiamata la battaglia di Taranto, benvenuti su Radio 24 da Daniele Biacchesi. L'Ilva dunque chiude i comparti produttivi di Taranto e gli stabilimenti del gruppo in Italia, Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera e Patrica. La comunicazione è arrivata ieri, proprio nel giorno in cui sono scattati altri 7 arresti e il sequestro dei prodotti della fabbrica tarantina. Un governo che viene sollecitato dai sindacati, dalla politica e convoca tutti giovedì alle 15 a Palazzo Chigi. Siete d'accordo con la chiusura dell'Ilva? Cosa deve fare il governo? Una forte mediazione politica? Un intervento economico e cos'altro? 349-238-6666, i nostri messaggi sms. Io saluto Mariano Maugeri che sta a Taranto, del Sole 24 Ore. Buongiorno Mariano. E saluto anche Maurizio Carbone che è sostituto procuratore a Taranto ed è attualmente segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Grazie Carbone. Buongiorno. Allora ascoltiamo la ricostruzione di Maria Luisa Pezzali che qui in diretta, soprattutto partiamo dalle inchieste. Buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori e ai nostri ospiti. La Procura di Taranto sta portando avanti un'inchiesta che ipotizza tangenti e complicità eccellenti per coprire l'inquinamento dell'Ilva. Associazione per delinquere, reato ipotizzato finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento delle acque e all'omissione dolosa delle cautele sul lavoro. I 7 nuovi ordini di custodia cautelare ieri hanno riguardato tra gli altri il patron dell'acciaieria, l'86enne Emilio Riva, che era già ai domiciliari dal 26 luglio scorso, il giorno in cui scattarono i primi arresti e sequestri, poi Girolamo Archinà, l'uomo delle relazioni istituzionali dell'Ilva, definito da Riva in un'intercettazione il maestro degli insabbiamenti, l'ex direttore dello stabilimento Capogrosso, l'ex rettore del Politecnico di Taranto Liberti, che avrebbe preso 10.000 euro per aggiustare una perizia, e l'ex assessore all'ambiente della provincia Conserva. Risultano invece tra gli indagati il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante e il direttore tecnico dello stabilimento Adolfo Buffo. Contestualmente i PM ieri hanno deciso anche il sequestro dell'area a freddo dell'impianto e di tonnellate di prodotti di acciaio commercializzati durante lo stop ordinato dal Tribunale. L'inchiesta ricostruisce la rete di relazioni che avrebbe aiutato l'Ilva, questa l'ipotesi dei magistrati, ad aggirare i controlli, e punta il dito anche contro il governatore della Puglia Nichi Vendola, che ieri già ha replicato: non ho mai fatto pressioni. Pressioni smentite in mattinata anche dal direttore dell'ARPA Puglia Giorgio Assennato. Nelle carte, oltre al nome del governatore, ci sono anche quelli di parlamentari PD e PDL, del sindaco di Taranto, di dirigenti regionali, giornalisti, un funzionario del Ministero dell'Ambiente, persino un agente della Digos, oltre a quello del presidente della provincia Gianni Florido. Noi lo abbiamo contattato poco fa, ecco cosa ci ha detto. Secondo me, in una città che ha una fabbrica così importante, le relazioni fra la grande fabbrica e le istituzioni e la politica, credo che a Torino succeda uguale in tutto il mondo. Il punto è distinguere quanto questo sta nella laicità e a quello che io vedo molto è lecito, e quanto invece, come può essere dimostrato dall'azione dei magistrati, poi è illecito. Allora ci spostiamo a Taranto, dove c'è Mariano Maugeri del Sole 24 Ore. Mariano, innanzitutto leggo anche a Maurizio Carbone alcuni degli sms che sono arrivati poco fa al 349-238-6666. C'è Gregorio da Catanzaro che dice: basta con questi PM che assumono decisioni che solo un giudice dopo un regolare processo deve prendere. C'è un altro ascoltatore che però non si firma, dice: si deve sequestrare tutto come parziale rimborso e poi si fa ripartire. Camillo Moranduzio scrive che l'Ilva va confiscata e ristrutturata dallo Stato e poi rivenduta ai privati. C'è Fabio che vuole sapere se Riva è sempre lo stesso che scappò in Libano negli anni 70, e poi comunque decine e decine di altri sms. Allora Mariano, la Cancellieri è molto preoccupata per l'ordine pubblico, perché quello che sta accadendo a Taranto sta accadendo, diciamo, in tutta Italia. In questo momento è bloccata l'autostrada a Genova e molto probabilmente, visto che la produzione è a rischio sia in Piemonte che in Liguria, ci sono anche altre zone calde. Cosa sta accadendo a Taranto? Ma guarda, qui la situazione non è così tragica. C'è stata, come dire, una mattinata effervescente, gli operai giustamente reclamavano delle risposte, e queste risposte in parte sono arrivate da parte aziendale. Lo stesso Buffo, che come giustamente dicevate da studio è stato raggiunto dall'avviso di garanzia, ha garantito che saranno pagati gli stipendi almeno fino a quando non saranno note non sarà nota la risposta, la replica dei magistrati del riesame sul ricorso appunto presentato dall'azienda a proposito del sequestro del Cols e del Laminati. Sottolineo che quello era il lavoro degli ultimi 4 mesi dell'Ilva, quindi è un quantitativo rilevante. Per un altro verso, gli operai si preparano alla mobilitazione di giovedì. Adesso ci sono gli scettici che dicono: no, è inutile andare a Roma, sono andati quelli dell'Alcoa e non hanno ottenuto niente. Qualcuno dice invece: se andiamo in 10.000 vedrai che qualcosa salterà fuori. Il nodo però a questo punto è tutto romano, e non da oggi. Il ministro Clini deve decidere sostanzialmente, come si ventila da parecchi mesi, se prendere la questione di petto e sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Che significa sollevare il conflitto di attribuzione? Decide la magistratura o decide il governo, che ha presentato, come sai, un'autorizzazione di integrata ambientale, è stata concessa all'azienda. Questa autorizzazione integrata ambientale recepisce tutte le prescrizioni del giudice del GIP Todisco, tranne una, cioè la chiusura dell'impianto. Oppure, altra alternativa, varare un decreto legge, un po' come fece Berlusconi nel 2008 nel pieno dell'emergenza Monnezza a Napoli, quando si decise che le discariche erano siti di interesse strategico nazionale, come dire, delle zone militarizzate, e lì nessuno poteva metterci becco. Ecco perché dico che ormai a questo punto la parola passa al governo, all'incontro, e vediamo, cosa succederà. Grazie Mariano Maugeri, che ci raccontava le ultime notizie da Taranto davanti ai cancelli dell'Ilva. Allora Maurizio Carbone, lei è stato ed è sostituto procuratore della Repubblica a Taranto, si è occupato di molte grandi inchieste, oggi è segretario dell'ANM. Dove parte questa inchiesta, Carbone? Ma è da anni che la magistratura di Taranto si occupa di reati ambientali connessi all'attività dello stabilimento dell'Ilva. Io ricordo che ci sono stati numerosi processi che hanno riguardato singoli settori dell'attività di produzione dello stabilimento, processi che sono sfociati in sentenze definitive di condanna per reati ambientali nei confronti dei vertici dell'Ilva, per cui non è una novità e non è un fulmine a ciel sereno questo sequestro. Tra l'altro oggi forse la vera novità è che si è avuta la contezza che da 4 mesi che è stato emesso il decreto di sequestro preventivo dal Tribunale di Taranto, ricordo sequestro tra l'altro confermato dal Tribunale del Riesame per gravissimi reati di disastro ambientale, e oggi il sequestro di 4 mesi di prodotto finito, che il vostro corrispondente da Taranto quantificava come molto elevato, dimostra che in questi 4 mesi in realtà il sequestro non è stato eseguito e l'azienda ha continuato a produrre, e secondo gli atti creando una situazione di attuale e concreto pericolo di danno all'intera collettività. Questa, devo dire, è la notizia. Oggi, ieri, l'autorità giudiziaria con questi nuovi provvedimenti ha voluto evidentemente chiarire che c'era questa situazione, che c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che deve evidentemente essere eseguito, ma non per capriccio, ma perché lo dice la legge, e perché secondo delle perizie epidemiologiche e mediche e sussiste a Taranto un concreto attuale pericolo. Questo dicono gli atti e finora non ci sono state smentite processuali. È chiaro che è un procedimento ancora in corso, le parti in causa avranno la possibilità di ricorrere e di impugnare con questi provvedimenti, ma attualmente la situazione è questa e se c'è un provvedimento questo deve essere evidentemente eseguito. Bene, bene, grazie. Sicuramente sofferto, perché è una sofferenza per chi vive a Taranto vedere questa situazione, la rabbia, certo, dei lavoratori che vedono a rischio il posto di lavoro, ma c'è anche un diritto alla salute di un'intera collettività, c'è una legge evidentemente che deve essere rispettata e questo vale per tutti. Grazie Maurizio Carbone, magistrato a Taranto e segretario dell'ANM, sono arrivati decine di sms, chi ce l'ha contro i giudici che, come dice Emilio, che starebbero distruggendo l'industria italiana. Ma per chi lavorano, un altro Rudy da Trento dice si deve risolvere una volta per tutto il confine tra magistratura e politica, da troppo tempo tiene sotto scacco il nostro paese. C'è chi come Gido da Padova se la prende con il ministro, dice pazzesco che il ministro se la prende con i magistrati che aprono solo le leggi vigenti e così via. Hanno fatto il 349-238-6666, vi ringrazio, ringrazio Maria Luisa Pezzali con me in redazione. Domani riprendiamo nuovamente il filo del racconto della cronaca italiana su Italia in Controluce.